Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. Buon pomeriggio, buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa. Ancora una volta le voci e le menti della generazione precaria incrociano queste frequenze. E questa volta non è uno scherzo. E continua l'occupazione al Pigneto, in via Scolari, angolo con via Alberto da Giussano, della generazione precaria, in questo stabile abbandonato da 30 anni, palazzina più teatro. Continua l'occupazione, continua la trattativa sul teatro, continuiamo a fare eventi, a proporre eventi, a fare cultura e continueremo a farlo. Alla fine di questa trasmissione, a margine, vi ricorderemo anche gli appuntamenti in via Scolare 17, occupazione generazione precaria. Accompagnato da questa selezione funky jazz americana di tutti i tempi, ricordiamo che oggi corre la festa del vino. San Martino, ogni mosto diventa vino. Jump to the jam, boogie woogie jam slam, bust the dialect, I'm the man in command, come flow with the sounds of the mighty mic master, rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster, buku ducks, but I still rock Nike with the razzle dazzle. Oggi la generazione precaria vi vuole parlare dell'esperienza dei fuorisede, che vivono la metropoli, che abitano la metropoli, che studiano nella metropoli. Oggi abbiamo qui Greta. Tutti, ascoltatori, fuorisede non, precari non. Allora, abbiamo qui Greta non solo per la sua situazione, ma perché per noi rappresenta un po' tutti i fuorisede che abbiamo incrociato in questi giorni nell'occupazione a via Scolari, che ci ha presentato Greta, che già conoscevamo, che hanno attraversato, ci hanno raccontato le loro esperienze anche attraverso le cartoline che abbiamo distribuito nei mesi scorsi. Le cartoline con cui la generazione precaria ha cercato di far raccontare la generazione che vorrebbero invisibile. Qual è la sua situazione, dicevamo, sulle nostre cartoline, la situazione di precarietà abitativa, lavorativa e sentimentale. Dai racconti che abbiamo ricevuto da tutti i precari e precarie della città, cercheremo di trarre delle pillole che secondo noi sono esplicative, emblematiche, di situazioni che vivono centinaia di persone all'interno di questa metropoli. Una metropoli attraversata da tanti ragazzi e ragazze che vengono soprattutto dal sud Italia, che vengono qui a Roma, forse non solo per fare l'università, ma con la speranza di trovare nella capitale una situazione lavorativa, abitativa, sociale, diversa, migliore. Vogliamo un po' parlare con Greta stasera di quali erano le sue aspettative venendo a Roma, di quale invece è stata la realtà con cui è venuta in contatto. Greta ha 22 anni, se non sbaglio, è pugliese, è a Roma dal 2007. Greta, perché a 19 anni sei venuta a Roma? Allora, io innanzitutto vorrei dirvi che le mie aspettative sì sono state rispettate, ma con notevoli differenze, diciamo, da ciò che era quello che uno si può immaginare. Io ho deciso di venire a Roma innanzitutto per andare via da casa, altrimenti sarei rimasta con i miei genitori, comunque non avrei avuto tutte le possibilità di agire, di fare ciò che comunque... ciò che volevi fare. Di quanti abitanti è il tuo paese, credo? Io vengo da un paesino comunque di 7.000 abitanti che offre ben poco sia a livello lavorativo, sia a livello sociale, sia a livello... anche a livelli di studio. Io sono venuta a Roma per... cioè sono iscritta in ingegneria, e che comunque non è neanche una facoltà abbastanza... anche una facoltà abbastanza... impegnativa. E avevo intenzione di trovare... pensavo comunque di trovare facilmente una stanza, neanche a prezzi troppo esagerati, ma non è stato così. Anzi, il primo anno sono stata quasi 2 mesi, diciamo, in balia di proprietari di casa e coinquilini che si approfittano forse un po' della situazione. Diciamo, della situazione, sì. Vabbè, in balia. Veramente in balia. Uno dice vengo a Roma, vengo nella capitale, trovo casa, trovo lavoro. Trovo un lavoretto e studio. Ma in realtà non è così, perché Roma, diciamo, molto spesso si presenta come un paesotto, sì, un piccolo paese, e si riscontrano, diciamo, gli stessi aspetti negativi che si possono riscontrare anche in un piccolo paesino del sud. Listed on the column that's classified. I could be a nurse and I'm qualified to talk about respect. I won't neglect. My strategy is for you to see, so don't turn away by what I say, 'cause I'm bad when I'm talking to you. Therefore fly brothers who can do it too. The party people in the place is just for you to get down. Get on down. She's the best one more and I'm throwing down. She's the best female in this town. And everybody know that I'm golden brown. And you know she's a joy. I'm jazz to jet with the most finesse. I'm down with the father, rock the monster best, 'cause I move the groove and I do it cool. Now rockin' you with you, I'm sure to prove, 'cause I want a young lady with a lot of finesse, and she's got to be on. 'Cause she's jazz to jazz. She's got to be sweet, yes, fine and kind, and it's just the kind of woman I want to be mine. You know, he's the joy. Allora, 18:20, Radio Onda Rossa, Generazione P. Continuiamo la nostra chiacchierata con Greta e Marta. Si arriva, dicevamo, si arriva nella capitale piena di speranze, e ci si accorge che fra le varie cose Roma forse è soprattutto la capitale degli affitti in nero. Ce ne accorgiamo tutti quando cerchiamo di uscire da casa dei nostri genitori, ce ne accorgiamo tutti appunto quando arriviamo da un'altra città, di quanto è difficile trovare non solo una casa, un posto letto, una stanza che ci possiamo permettere, ma anche un posto che sia dignitoso per vivere, che spesso ci vengono presentati a delle cifre assurde, degli sgabuzzini spacciati come stanze singole. Greta appunto ci diceva che ci ha messo quasi 2 mesi a trovare un alloggio a Roma. Un alloggio vivibile sicuramente, perché ci si può accontentare, spesso accade che fuori sede per necessità sicuramente, non per altro e non perché sono una merce di scambio, una merce, qualcosa da sfruttare, si accontentino di, spesso succede che ci si accontenti di catapecchie a prezzi esagerati. Infatti volevo fare un appello a tutti fuori sede che sono in ascolto di impegnarsi a innanzitutto a denunciare tutti gli affittatari, coloro che vogliono affittare in nero e coloro che si approfittano evidentemente anche assolutamente senza scrupoli della nostra situazione. Sì, dicevamo gli affitti a Roma a prezzi inarrivabili per chiunque, perché chiunque di noi per permettersi una stanza singola è costretto a lavorare 14 ore al giorno, cosa che è improponibile per un ragazzo o una ragazza che vengono a Roma iscrivendosi all'università, soprattutto per come è strutturata attualmente l'università, perché creda che ha 22 anni, quindi è un nuovo ordinamento con l'obbligo delle presenze alle lezioni. È totalmente impossibile riuscire a lavorare per permettersi una stanza in affitto e contemporaneamente studiare. Come hai fatto tutto il tempo che sei stata in affitto? Come ho fatto? Diciamo che il ritmo degli esami sostenuti non è stato quello che doveva essere, semplicemente, ovviamente, più tempo impieghi a fare gli esami, più tempo rimani all'università e più tempo ti ritrovi a dover pagare l'affitto, e quest'anno io mi sono quasi ritrovata a dover continuare l'università a distanza, proprio per necessità economiche, perché comunque arrivata al terzo anno di università, dovendo pagare sia le tasse, sia l'affitto, sia le continue spese, la situazione inizia a diventare realmente precaria. How I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. Crazy lady living in a bag, eating out of garbage bales, used to be a fag hag, such a dance to tango, skipped the life and tango, was hooked on Prince to seem to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so did it. She had to get a facile dire bamboccioni, facile chiamarci così, facile fare le stime su quanti sono gli studenti fuori corso all'Università di Roma. Ora ci chiediamo come facciamo a dare gli esami in tempo, a rimanere al passo con i ritmi di studio, se siamo costretti a barcamenarci spesso fra uno o due lavori in nero, a barcamenarci con padroni di casa che ci sfrattano senza preavviso, a barcamenarci con coinquilini che hanno le nostre stesse difficoltà. Dicevamo prima a chiacchiere, no, del fatto di quanto è difficile lavorare a Roma, soprattutto per chi non è automunito. Roma ha una carenza di servizi e anche trasporti che è imbarazzante date le dimensioni della città. Trovare un lavoro vuol dire dover calcolare spesso un'ora di spostamento all'andata, un'ora di spostamento al ritorno. Praticamente ci succhiano il tempo della vita, non abbiamo più tempo di fare nient'altro, senza dimenticare che a parte il lavoro, a parte lo studio, si vorrebbe avere il tempo di andare al cinema, di leggere un libro, di vedere gli amici, di bersi una birra. Spesso mancano non solo i soldi per farlo, manca anche il tempo. Dicevamo con Greta, ma te hai provato a trovarti lavoro quando sei arrivata qui? Certo, anche quello è un'impresa abbastanza complessa, a meno che non si vuole cedere ai soliti lavoretti, che comunque, sempre che ti risucchiano, nonostante il compenso economico sia molto inferiore a quello di magari un lavoro fisso con contratto a tempo indeterminato che non esiste, sicuramente anche un lavoretto ti risucchia comunque mezza giornata e non ti ritrovi ad avere magari un rientro di 20-30 euro per 4-5 ore lavorative, e ti ritrovi però a non avere più tempo per studiare. Quindi iniziano ad esserci dei contrasti tra le varie situazioni. brags to his boys. Erection brings bad boy joys. Boy thinks of that big fat fat. Big black fat, the big black fat. Girl calls boy to stand him up on Saturday. Saturday. Saturday, it's a Saturday, it's a Saturday, it's a Saturday. Saturday, it's a Saturday. Saturday, it's a Saturday. Back once more with a wall up in the score. Twice about a riff, should I make it rock your hip? Revival of the roller boogie in a ricochet to make you think about the time we spoke fun instead of fight. A diamond from a piece of metal, should I dig your life? Slip your butt to the fix of this mix. Toss that briefcase, it's time to let loose. Cause you work like heck to get the week in check. So unfasten that sleeper on your neck. Connected like a rod from the wheel to the foot. Come on everybody, this the funky output. 5 days you work. I reminisce to a bounce rock skate road fest to impress. Hey, pretty diamond, do you like the way I'm dressed? Ooh, keep the faith and be my mate, cause all we need is feet. But promote the hustle, cause it keeps me thin. No need to talk, look who just walked in. Is there a bread on skate? Yes, man. So kick the wham on this jam. Oh, Mr. Sprinkler, Mr. Sprinkler. Wet me for one, Mr. Sprinkler. I'm heating high five and a day's no split. With a yawn, I trip to the dawn. Out comes the bodies following the one idea. It's clear, rattle to the roll. Hold back up the track, grab your roller skates, y'all. And let's zip on by. Zippity doo, now let's zip on by. Feed on the weed and we're feeling high. Sun is on thick and the cheese is rolling thick. Come on, it's no time to hide. Season is twist, spinning and winning. No hack and sack, let me in. Spill on the bottom away, but it's okay. It's a Saturday. Now let's all get baked like I need. Watch Mr. Long, don't look at the beat. Feel on the farm, I'll feel on the. Hey, watch that. It's a Saturday. Now is the time to act the fool tonight. Forget about your worries and you will be alright. It's Saturday, Saturday, Saturday. Piccola pausa musicale per la generazione precaria e per Radio Onda Rossa, un classico del funk americano. While the black man's sweating in the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need. Hey. Our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the power that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. As the rhythm's designed to bounce with health and mental lies, designed to fill your mind, now then to realize the prize arrives. We got the pump to start to make it happen. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, something strange. People, people, we are the same, no we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness, we can't get careless. You say, what is this? Yeah. Let's get down to business, mental self-defense or fitness. Go, go, let's get showing. You got to know to make everybody see. In order to fight the power that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. La generazione precaria ancora qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa, chiacchiere con Greta, una delle tante fuorisede che vive in questa città. Abbiamo parlato finora un po' di qual è stata la situazione in cui si è trovata catapultata quando è arrivata a Roma, situazione sugli affitti, la situazione sul lavoro. Pensiamo ora qui però a darci anche delle risposte, a darci qualche speranza, diciamo una generazione che vorrebbero invisibile, che sta cercando di riprendersi non solo la sua vita, sta cercando di riprendersi il futuro. Quindi volevo un attimo chiedere a Greta qual è la situazione che sta vivendo adesso, come sta sperimentando forse un nuovo modo di vivere la questa città. Sì, come dicevo prima, infatti io ad oggi dovrei essere giù a casa con i miei genitori e mi dovrei ritrovare a studiare, diciamo, a distanza. In realtà dover fare una facoltà che a distanza non si può, perché ingegneria, come ben sapete, dovrebbe essere frequentata tutti i giorni. E quindi ho deciso, sono riuscita, diciamo, a intraprendere un nuovo percorso con Generazione P. Mi ritrovo una nuova occupazione in via Scolari e vorrei, diciamo, dare una risposta, una sorta di risposta a tutti quei ragazzi fuori sede che si ritrovano più o meno nella mia stessa situazione, e vorrei mostrare, diciamo, la mia reazione, il mio nuovo modo di reagire a tutti quei proprietari di casa che finora, diciamo, mi hanno sfruttato e mi hanno utilizzato. Appunto, Greta decide di rispondere alla precarietà abitativa con un gesto così forte, decide di occupare come migliaia di giovani decidono di fare oggi a Roma. Soltanto in via Scolari siamo attraversati non solo da studenti fuori sede, ma da studenti che vivono a Roma, che si pagano da soli l'università. Insomma, è complicato. Ci sono i precari, quelli che non fanno l'università, ma comunque devono campare, devono pagare l'affitto, devono pagare le bollette, devono pagare il cibo e spesso le multe, tutto il cinema, il teatro e tutto quello che non è molto accessibile per noi precari. La Generazione P può e deve reagire, la Generazione P deve far vedere che esiste, deve portare avanti le sue battaglie, deve avere diritto al futuro. Per questo nei prossimi giorni continueremo a invadere la città delle nostre cartoline, la mia P, cui chiediamo di raccontare la propria storia di precarietà in ogni senso, e che ricordiamo che non si parla solo di precarietà abitativa, si parla di precarietà lavorativa, si parla di precarietà soprattutto rispetto al futuro. Finalmente le cartoline, quindi le nostre storie, le nostre vite, hanno trovato una casa o almeno un punto di incontro e confronto nell'occupazione al Pigneto. Speriamo che molti di voi continueranno a passare a raccontarci un po' qual è la loro situazione. Nei prossimi giorni abbiamo un calendario fitto di incontri, dibattiti musicali. Adesso magari ve lo andiamo a esplicare un po' più nel dettaglio. Intanto salutiamo Greta. Buonasera a tutti. E 35 Radio Onda Rossa, la Generazione Precaria parla. Generazione Precaria, via Filippo Scolari 17, angolo via Giussano Pigneto. Allora cominciamo, vi raccontiamo un po' la programmazione dei prossimi giorni, visto che quello che abbiamo fatto lo abbiamo già raccontato in giro per Roma e anche su questa radio. Allora cominciamo da venerdì 12, che mi risulta essere dopodomani, se il tempo non mi inganna. Domani, se il tempo non mi inganna. Ore 18 abbiamo una per il jazz, aperitivo con selezione musicale jazz più expo, esposizioni di artisti emergenti. Continuiamo con sabato 13, ore 10 partiamo con il mercatino. Ore 13 abbiamo il pranzo salentino, in cui Greta, che viene dal Salento, ci aiuterà a preparare. Alle 15 abbiamo previsto un giro turistico del Teatro Peneste per far vedere al quartiere, ai ragazzi del quartiere, ai più grandi del quartiere, a chi ci vuole conoscere, cosa stiamo rimettendo a posto, cosa stiamo sistemando, cosa vogliamo che venga riaperto al quartiere. Per questo, subito dopo, alle ore 16, apriremo un'assemblea in cui chiediamo che ci vengano portati dal quartiere, da non solo, le proposte per la riapertura del Teatro Peneste. Alle 18 ci prendiamo un po' una pausa meno impegnativa, facciamo un aperitango, un aperitivo con selezione musicale tanghera. Alle 20:30, se ci riusciamo, perché un palazzo abbandonato da 27 anni non ha l'antenna, se ci riusciamo alle 20:30 proiettiamo la partita Roma-Juve. Oggi le prove tecniche dicevano di sì, che probabilmente ve la proietteremo. Dai Roma, quindi partita, porchetta e vino alle 20:30. Domenica ci dedichiamo, facciamo un pomeriggio, una serata di Cineforum, pure per riportare un po' il Teatro Peneste alla sua funzione originaria. Alle 16 partiamo con un cineforum per i bambini, proiettiamo Robin Hood. Alle 18:30 proiettiamo Dopo Mezzanotte e alle 22:30 Eyes Wide Shut, film consigliamo a un pubblico adulto. Tutto il giorno verranno offerti hot dog caldi cucinati allo splendido bar del teatro. Il pub sarà attivo. Ricordiamo i nostri contatti per chi ci vuole conoscere, farsi conoscere, venire a parlare, per chi ha proposte per il teatro. Noi stiamo in via Scolare 17, angolo via Giussano. Vi ricordiamo anche che potete trovarci su Facebook Generazione Più Precaria. Allora, questi sono i tre giorni che si avvicinano, sono tutti in vista di martedì, nel quale si svolgerà un importante punto per la nostra trattativa, ma non solo, è anche il complimese della Generazione Precaria, che è un mese che è occupata. Yuppi! Yuppi! E quindi vi invitiamo tutti quanti alle 4 all'assemblea, appunto al teatro, per raccogliere le proposte, per confrontarci, per conoscerci. A seguire ci sarà un aperitivo musicale. Prima di lasciare spazio alla prossima trasmissione sulle frequenze di Radio Onda Rossa, ricordiamo a tutti e tutte l'appuntamento del 20 in corteo all'Aquila. Prima di arrivare al corteo ci siamo offerti come spazio per una tappa intermedia di discussione e confronto su quella che è attualmente la situazione in Abruzzo, quindi invitiamo tutte e tutte a partecipare il 17 a partire dalle ore 18 a un incontro, un'assemblea, ci saranno videoproiezioni, una mostra fotografica. Speriamo anche lì saranno raccolti per, come ultima data saranno raccolte le prenotazioni per i pullman. Invitiamo a tutti e tutte insomma a salire all'Aquila, ci sembra un passaggio importante. Detto questo, mettiamo il nostro ultimo pezzo e lasciamo spazio ai ragazzi che vediamo dall'altra parte del vetro. Patrol. And this one's about the KOs, the knockouts out there who I call my Hold buddy. Hold up, just wait. We're gonna talk about buddy on this plate. But before we let the herd out the gate, make sure. Allora, buona serata a tutte dalle precarie e precari che occupano in via Scolari e dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Black medallions, no gold, hanging out with bars, hanging out with mix. Buddy, buddy, buddy, all in my face. Fold the lap. Jim Browski must wear a cap, just in case the young girl likes to clap. Aim for the win, but before I begin, I initiate the body with a slam on the neck. I'm the keeper from a Tribe Called Quest, and if you quest for the body, don't fess. If the Jimmy wants nothing but the best, the best, the best, let's stick out the Jimmy and see what we can catch. Stick him up, Jimmy. Next, won't be needed unless Jimmy wanna get right to the flesh. Dancing on the dance floor, girl, it's you that I adore. Step off stage, just scream for more. Native tongue, got rhymes galore. Fly buddy, buddy, don't you know you make me go nutty, nutty. I'm so glad that you're not a buddy duddy, duddy. Not too skinny and not too chubby, chubby. Soft like silly putty, Miss Crabtree, Crabtree. I know that you're not mad at me, cause at I me. Told you that it was your buddy, buddy. That was making me ever so horny, horny. Jungleistically horny. I won't lie, I love B-U-D-D-Y, cause I never let it walk on by. When it comes to me and Jenny, I seem very serious.